البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صفقة تشاو صفقة تشاو. Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17:30 su Radio Wombat. Anche la trasmissione di oggi fa seguito alle 270 firme da parte di esponenti del mondo italiano, dello spettacolo accademico, artistico, scientifico e musicale, in appoggio alla lettera di 122 omologhe personalità palestinesi e del mondo arabo pubblicata sul Guardian a fine novembre. Ricordiamo che la lettera riguarda la definizione di antisemitismo dell'IRA e l'uso distorto che ne viene fatto in Israele, in Europa, come negli Stati Uniti e da istituzioni e governi contro i sostenitori della lotta per i diritti del popolo palestinese contro l'occupazione israeliana della Palestina. Nella trasmissione scorsa abbiamo intervistato il dottor Domenico Gallo, magistrato di Cassazione e già senatore, sugli aspetti legali dell'IRA, che ricordiamo in italiano l'acronimo significa Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. Nella trasmissione odierna abbiamo in collegamento Monio Vadia, uomo di teatro, attivista dei diritti civili e sociali, che spesso si è espresso in favore della causa palestinese, in palese contrasto con l'atteggiamento del governo israeliano nei confronti di questo popolo e con alcune comunità ebraiche. I valori, la cultura e le tradizioni ebraiche e bibliche fanno spesso parte delle sue rappresentazioni teatrali. Monio Vadia ha partecipato con convinzione ed entusiasmo alla raccolta delle firme delle personalità italiane, dell'arte e dello spettacolo. E poiché il documento IRA è volto a mettere Israele al riparo da ogni critica, l'incontro con Monio Vadia, profondo conoscitore della cultura ebraica, riguarderà il rapporto tra sionismo ed ebraismo. Lo ascolteremo subito dopo la selezione stampa della settimana e un breve intervallo musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela e vi parlo dei 5 articoli selezionati da Amicizia Italo-Palestinese per questa settimana. Il primo articolo, dal titolo Signor Blinken, le nostre storie familiari si somigliano, in realtà è una lettera aperta, struggente, che Mona Sadar, una giovane palestinese che vive a Gaza, indirizza ad Anthony Blinken, designato alla carica di segretario di Stato degli Stati Uniti dalla nuova amministrazione Biden. Blinken, nell'accettare la nomina, ha ricordato suo patrigno, che da bambino in Polonia è sopravvissuto all'orrore nazista dei campi di concentramento. Ha fatto sapere anche che non riporterà l'ambasciata degli Stati Uniti a Tel Aviv da Gerusalemme, affermando quindi che gli Stati Uniti riconoscono Gerusalemme come capitale di Israele. In questa lettera, l'autrice, rievocando la sua storia familiare, fatta di dolore e sofferenza, racconta di suo nonno materno, che da bambino è stato costretto all'esilio con la sua famiglia, scappando da un piccolo villaggio vicino a Jaffa dove viveva, perché distrutto come tanti altri nel 1948 per far posto allo Stato di Israele. Nel descrivere la sua vita a Gaza, fatta di mille privazioni, Mona Amsaddar invita Blinken, quando delibererà su politiche relative ad Israele e di palestinesi, a ricordarsi di lei e della sua famiglia, la cui storia somiglia a quella di suo patrigno e che continua la sopravvivenza in quel campo di concentramento che si chiama Gaza. Nel secondo articolo, dal titolo Un regime di supremazia ebraica dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, questo si chiama apartheid, viene riportato per intero il rapporto della ONG israeliana B'Tselem, di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, con il quale si definisce Israele un regime di apartheid. In questo report, B'Tselem descrive in maniera dettagliata del perché si è arrivati a questa conclusione, a partire dalla differenziazione dei diritti di cui godono i palestinesi che vivono in Israele, quelli in Cisgiordania, quelli a Gerusalemme Est e quelli a Gaza, rispetto alla piena cittadinanza degli ebrei che vivono in Israele. Il report quindi analizza e descrive i principi che guidano il regime e che hanno portato quindi alla definizione di apartheid. Il documento mette dunque in evidenza come la piena cittadinanza degli ebrei si realizzi, ad esempio, attraverso la possibilità di emigrare in Israele, a differenza dei palestinesi che non possono e ai quali è negato il diritto al ritorno. Questo e tanti altri diritti vengono negati ai palestinesi sulla base di uno status che solo lo Stato di Israele riconosce e concede. Le discriminazioni elencate continuano anche e soprattutto evidenziando la politica espansionistica territoriale degli israeliani e dell'impossibilità per i palestinesi di poter esercitare qualsiasi diritto sulla loro terra. Prosegue il documento ponendo l'accento sulla negazione alla mobilità nei territori in Israele e all'estero per i palestinesi, nonché sul fatto che questi non possono partecipare alla vita politica. Conclude il report l'invito a guardare in faccia la realtà per poterla quindi cambiare, chiamandola con il suo nome, e cioè apartheid. Nel terzo articolo, dal titolo Lo Stato suprematista ebraico, Norman Finkelstein, il grande storico e politologo statunitense, ribadendo quanto già evidenziato nei suoi studi, cioè definendo annessione della Cisgiordania quella messa in atto da Israele e non più occupazione temporanea, visto che sono passati ormai più di 50 anni dall'inizio, nel commentare il documento di B'Tselem, oltre a quanto descritto dalla ONG, Finkelstein evidenzia un altro aspetto che contraddistingue la supremazia ebraica, e cioè la mancanza di valore che viene attribuita alla vita dei palestinesi, testimoniata dagli assassini impuniti nei loro confronti, che non suscitano alcun interesse e protesta da parte degli israeliani. Nel fare un parallelo con il regime segregazionista sudafricano passato, Finkelstein invita tutti quanti ad usare d'ora in poi l'espressione Stato suprematista ebraico nel definire Israele. Nel quarto articolo, dal titolo Una risposta alla violenza israeliana, arrestare dozzine di palestinesi in una sola notte, l'autrice Amira Haas ci racconta dei numerosi arresti compiuti dagli israeliani avvenuti nelle ultime settimane nei confronti dei palestinesi dei villaggi di Muhir e Kfar Malik, che manifestavano contro gli insediamenti illegali. Molti giovani, che tra l'altro erano stati oggetto delle violenze da parte dei coloni, sono stati prelevati dalle loro case nel cuore della notte e portati via dall'esercito, che non ha risparmiato la violenza nemmeno ai familiari presenti. Alcuni di loro in seguito sono stati rilasciati, altri si trovano ancora in regime di detenzione amministrativa. Conclude la rassegna stampa l'articolo dal titolo Il lavoratore Abdul Fattah Obayat, torturato e picchiato a morte dai coloni di Ghilo. Nell'articolo, la nuova federazione sindacale palestinese invita tutte le organizzazioni sindacali internazionali a condannare Israele e le imprese israeliane che sfruttano la manodopera palestinese in modo disumano, facilitati dal fatto che molti palestinesi, per sopravvivere, sono costretti a lavorare nelle colonie israeliane, per cui, oltre allo sfruttamento, devono subire anche la violenza brutale dei coloni, come è successo pochi giorni fa ad un operaio di 38 anni, Abdul Fatah Obayat, che lavorava nella colonia di Gilo, edificata sulla terra rubata ai palestinesi. Ritrovato assassinato all'interno della colonia dopo aver subito terribili torture. Nell'appello si invita anche, attraverso forme di boicottaggio, a far pressione su Israele, che tra l'altro approfitta della pandemia da Covid-19 per preservare la propria economia di sfruttamento. Gli articoli che ho citato li trovate in italiano e con le rispettive fonti sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Con questo concludo e restituisco la linea allo studio. Abbiamo Moni Ovadia, che è stato uno dei firmatari e promotori della raccolta delle firme delle oltre 270 personalità italiane che si sono espresse a sostegno della lettera delle 122 omologhe personalità palestinesi ed arabe. Questa lettera dei 22 contestava l'abuso del termine antisemitismo, dove questo abuso si basa su un assai criticato documento dell'IHRA. L'IHRA è un istituto creato per ricordare l'Olocausto, ma che di fatto cura gli interessi politici di Israele e basta. Quello che chiediamo oggi a Moni Ovadia, anche in rapporto alle firme raccolte in Italia, è: possiamo dire che l'uso strumentale e politico del termine antisemitismo che viene fatto attualmente sta determinando un certo sussulto e una reazione da parte della società civile? Non sufficiente a mio parere. C'è qualche sussulto, ma è diciamo confinato a persone che già conoscono molto bene il contesto israelo-palestinese, che hanno opinioni critiche e non ideologiche, o addirittura che non hanno opinioni. Ci sono moltissime persone che non sanno nulla, cioè c'è una diciamo mancanza di conoscenza, se non parliamo degli ambiti intellettuali o comunque di persone che seguono questa vicenda. Le persone hanno idee molto molto confuse. Parlo appunto di diciamo di cittadini che non seguono particolarmente quel contesto e sono secondo me la stragrande maggioranza. Peraltro nelle televisioni e nei talk show mainstream non si parla mai di questa questione, perché diciamo l'attuale governo israeliano ha questo tipo di politica, che non se ne parli. Non che si parli magari difendendo le ragioni, fra virgolette, di Israele, ma proprio la posizione è quello di non parlarne. Io ho partecipato a diversi confronti, insomma, indetti, non so, da Associazione Palestina o da altri, ma arriva subito, per esempio, intanto esponenti delle comunità ebraiche a protestare contro i che danno luoghi, contro le università che danno aule per questi confronti, per questi incontri, in modo che non si tengano. Proprio questo è l'atteggiamento generale e secondo me l'informazione è molto molto molto scarsa e comunque spesso retorica nei confronti di questa questione. Non so se noi facessimo un sondaggio condotto da una seria società di sondaggi su quanti conoscono la questione israelo-palestinese e soprattutto quanti conoscono le attuali condizioni in cui vivono i cittadini palestinesi, in cui vive il popolo palestinese nelle aree sia della Cisgiordania che di Gaza, molti secondo me non saprebbero neanche rispondere. Questa è l'impressione che ho io, è proprio una delle cose, è difficilissimo fare arrivare questa questione oltre ambiti già motivati. Ecco, la mia domanda è volta a chiarire proprio questo aspetto, cioè l'aspetto antisemitismo, cioè antisemitismo è una parola molto grossa e che significa qualche cosa un po' per tutti. Ora, il fatto che venga distribuito a destra e a sinistra questo epiteto di antisemita con questa facilità, mi pare strano che non determini una qualche reazione da parte almeno delle persone intellettualmente più dotate. Purtroppo no, perché non io tante volte ho provato, anche con i talk show, ho chiesto a tutti, anche alla stampa, avviamo un dibattito su questa questione, cosa sia l'antisemitismo, in quale relazione siano le critiche contro la politica del governo di Israele attuale e anche precedenti nei confronti della questione palestinese, se questo abbia attinenza con il termine antisemitismo e anche con il significato che è, come dicevi tu, un significato che dovrebbe essere quasi sacrale. Invece c'è questo uso disinvolto e strumentale, il tentativo dell'attuale governo di Israele, che viene da una tradizione del cosiddetto sionismo revisionista, che ascende prima a Jabotinsky, Trumpeldorf, e poi passa attraverso i Begin, Shamir, per arrivare oggi a Netanyahu, è un appunto questo governo viene da questa cultura reazionaria. Jabotinsky era anche un grande ammiratore di Benito Mussolini. Allora, queste cose le sanno in pochissimi, e Netanyahu e questa, diciamo, le formazioni della destra e della destra estrema israeliana hanno capito che l'Olocausto può essere messo al servizio della politica e anche dell'ideologia di questo sionismo revisionista, che tende a identificare l'intera area della Palestina, dell'ex Palestina mandataria, come Israele biblica, e quindi che spetti, secondo una teoria essenzialista, agli ebrei, e quindi che gli unici cittadini di quel territorio che comprende lo Stato di Israele, la Cisgiordania e Gaza, siano diciamo gli ebrei, ecco, però lì ci sono milioni di palestinesi, quindi si pone un drammatico problema. Ma le persone, secondo me, parlo fuori dagli ambiti del dibattito. Io raramente sulla stampa, che non sia il manifesto, vedo una analisi che siano all'anglosassone perlomeno, cioè corrette, che dichiarino quello. C'è piuttosto una sorta di autocensura, la stampa e anche dei talk show. Io ho provato moltissime volte a dire parliamone almeno, no, è proprio questo è lo stato delle cose. Questo in effetti che stai dicendo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle un po' in tutte le città d'Italia. Quello che ti volevo chiedere era anche questo, cioè le comunità ebraiche sono attualmente appiattite sulla difesa del sionismo sempre e comunque, cioè Israele va sempre difesa. Ma io quello che ti domando è questo, che l'intellettualità italiana, io penso agli amici anche della mia famiglia, di mio padre e altro, l'intellettualità italiana ha sempre avuto una forte componente ebraica, libera e autonoma e in generale laica anche. Ecco, questa componente che c'è tuttora, insomma, che è tuttora presente nell'intellettualità italiana, questa componente avverte il disagio di quello che è attualmente il sionismo reale, o cioè, se vuoi in altri termini, il sionismo è ancora un valore nella diaspora? Ecco, questo mi chiedo. Per una parte, direi che le comunità ebraiche, quelle principali, se parliamo dell'Italia, poi se parliamo delle altre diaspore, i discorsi cambiano ancora. Le dirigenze tendono ad essere appiattite su Israele, tendono ad essere. Però all'interno delle comunità ci sono persone invece che hanno posizioni critiche che vanno dalle posizioni più moderate, critiche ma moderate, a quelle di, chiamiamole più radicali, che sono per esempio, non so, gli ebrei che si ritrovano in un'associazione, in un gruppo che si chiama ECO, Ebrei contro l'occupazione. E poi personalità invece sciolte, come alle quali appartengo io, o Gad Lerner, per fare due nomi, e Gad e io siamo molto, molto, molto critici. Io sono, credo di essere considerato il più critico, infatti spesso ricevo pletore di insulti, ma alle quali io non, oramai non rispondo più perché non provengono da analisi politiche, ma provengono da una sorta di cortocircuito psicopatologico. Ci sono diversi ebrei che vivono come se fossimo a Berlino nel 1935, cioè proprio hanno una reazione viscerale, immediata, di grande sofferenza. Per esempio, alcuni amici miei che non sono d'accordo con me, però che non mi criminalizzano, mi hanno detto: ma sai la tua posizione quanto ha fatto soffrire tantissime persone? Io ho detto: ma io non riesco a capire onestamente perché dovrebbe far soffrire. Io esprimo delle opinioni. Non sono Mosè, come dire, sono una persona che esprime delle opinioni e uno può essere o non essere d'accordo con me, ma ripeto, le mie sono opinioni e anche conseguentemente scelte di natura etico-politica, perché il mio problema principale è che, per come io vedo, e non sono l'unico, perché le mie fonti di informazione vengono dall'opposizione vera israeliana, da coraggiosi giornalisti come Gidon Levi, come Amir Haas o addirittura la straordinaria figura dell'ex presidente del Parlamento israeliano, Avraham Burg, che recentemente c'è stato un articolo su Haaretz, ha chiesto che venga tolta dai suoi documenti la dicitura ebreo, perché rimanga solo la dicitura israeliana. E perché lui ha voluto che venisse tolta la dicitura ebreo? Perché la legge Stato-Nazione che dichiara che gli unici cittadini di quella Israele che non ha ancora mai dichiarato i suoi confini sono gli ebrei, allora lui dice: io non voglio essere uno che sta dalla parte dei padroni di una terra. Cioè proprio lui, no, sembra che è una posizione fortissima, perché dice: ah, sono gli ebrei i cittadini di serie A. Bene, io non voglio essere un cittadino padrone, quindi togliete la dizione ebreo dai miei documenti. Ed è una posizione straordinaria, perché se l'ebreo è quello che ha titolo alla terra e 1.800.000 palestinesi cittadini di Israele non sono più cittadini a pieno titolo, allora io non voglio essere ebreo. E questa è una posizione originale non accetterò mai di essere dalla parte di quelli che sono superiori e che hanno titolarità diverse da altri cittadini che abitano nella stessa terra. Quindi ci sono posizioni. E io Scusa. faccio riferimento, finisco brevemente, faccio Sì. sempre riferimento, sempre al quotidiano a cui sono abbonato nell'edizione inglese e alle associazioni per i diritti, che sono, per esempio, per citarne una, Bethlehem, Breaking the Silence, che è fatta di militari che renitenti, sono i refusnik, quelli che non vogliono andare a servire perché ritengono contro i loro principi morali e umanitari, eccetera, eccetera. Queste sono le mie fonti, quindi io ho fonti criticissime, persino molto più di me, che sono israeliane. Ecco, allora, quello che tu mi dici mi conferma in qualche maniera questa sensazione da parte degli ebrei di essere ancora perseguitati. Quello che tu dicevi è come vivere Berlino nel 1935. Cioè, Sì, molti sono questa così. sensazione c'è tuttora, malgrado che la realtà delle situazioni è completamente diversa. Cioè, attualmente, Assolutamente. diciamo, c'è una presenza ebraica, e una presenza anche sionista, purtroppo, molto forte sia come capacità di influenza Io ho scritto molte sulle. cose a proposito, ho scritto molte cose a proposito. Ora, la disamina delle questioni psicopatologiche è una cosa che non attiene a una. Io non faccio né lo psichiatra né lo psicanalista, e non lo dico in modo sarcastico o sardonico, cioè lo dico oggettivamente. C'è gente che percepisce così. Ora, io cerco di argomentare, argomento in questo modo, ma scusate, ma io sto criticando la politica di un governo, di un'autorità militare. Cosa c'entra qui l'antisemitismo? Perché parlate di antisemitismo? Non è il merito proprio, non stiamo parlando di questo. Io giudico che la politica dei governi Netanyahu e anche di governi precedenti, forse con l'eccezione di Rabin, che pagò con la vita per questo, siano politiche ingiuste, segregazioniste e che abbiano la componente del razzismo, piaccia o non piaccia. Perché quando tu fai una legge, fortunatamente che è passata a maggioranza risicata nella Knesset, però è passata, in cui dici che l'unico cittadino dello Stato di Israele a pieno titolo è l'ebreo, e che l'arabo non si capisce cos'è, perché poi una delle tecniche di questi governi è l'elusione delle questioni. Cioè, per esempio, qualsiasi argomentazione viene rintuzzata appunto cercando di tappare la bocca all'avversario, non rispondendo nel merito della questione. Sempre tappare Sì, la bocca. conosciamo benissimo. Sì, non mi riveli nulla, purtroppo. Conosco benissimo le Ma è così. argomentazioni e i modi di Ma queste perché? persone. Perché è semplicemente così. È semplicemente così. Non è una cosa che dico io che sono malevolo. Per esempio, si arrivano a dei paradossi. Una volta un rappresentante della comunità ebraica di Roma, a me che parlavo di colonie, no? Colonie ebraiche e israeliane nei territori che, secondo le risoluzioni dell'ONU, appartengono al popolo palestinese. Mi è stato detto che chiamarle colonie era una prova di cattiveria, perché quelli sono insediamenti, non sono colonie. Allora, capisci, siamo a questi livelli comici. Per esempio, ci sono intellettuali americani, parlo come Noam Chomsky, per fare l'esempio più clamoroso, ma per esempio c'è uno che si chiama Finkelstein, mi sembra a lei. Alan Finkelstein, adesso non ricordo. Ah, sì, finché certo. Lui ha tutti e due i genitori, sono sopravvissuti alla Shoah. Il padre è sopravvissuto a Auschwitz e la madre a Majdanek o viceversa. E lui è il più duro di tutti. Cioè, lui parla addirittura, lui ha usato un termine che naturalmente, figurati, ha scatenato un putiferio, supermercato della Shoah, cioè usare questo strumentalmente per fare una propaganda inaccettabile, cioè inaccettabile. Perché l'antisemitismo moderno, parliamo non dell'antisemitismo di matrice religiosa e in particolare del mondo cristiano, che è stato in passato. Ecco, scusa, Partiamo. scusa, ma, no, no, un momento, scusa, ti interrompo un attimo per un motivo, scusa, Moni, perché questo ci porta sulla seconda parte del nostro incontro, per la seconda, diciamo, domanda che ti volevo fare. E Sì. a questo punto ho bisogno di fare un breve intervallo musicale e Ah, fra certo. un paio di minuti ci vediamo e ne riparliamo, va bene? Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Riprendiamo con l'incontro con Moni Ovadia. La seconda domanda che ti volevo fare era un po' questa. Considerato che i valori, la cultura, le tradizioni ebraiche e le tradizioni anche bibliche sono spesso nei contenuti delle rappresentazioni teatrali di Moni Ovadia, quello che ti vorrei chiedere è come incide il sionismo rispetto ai valori religiosi, considerando che dal punto di vista religioso l'ebraismo si considera una religione universale. Cioè c'è una modifica, una corruzione, chiamiamola. Perché diciamo che il mondo religioso ebraico è molto articolato, sia dal punto di vista teologico che dal punto di vista politico. Cioè la domanda è: com'è spiegabile che gran parte dei gruppi religiosi abbiano finito per aderire al sionismo? Non ne sentono ancora, non ne sentono anche questi non sentono il disagio morale di una cosa di questo genere. Ma in realtà noi dobbiamo tenere conto che l'ebraismo è un pensiero, è un'ortoprassi intanto, cioè un insieme di pensiero e di comportamento di una complessità e di una vastità inimmaginabili per chi non sia almeno un po' familiarizzato. Allora, non esiste ebraismo, l'ebraismo è, diciamo, ha diversi, come posso chiamarle, è sempre molto difficile definirle in modo ristretto. Comunque, c'è una parte che gli ebrei chiamano Torah, e che è detta ebraica, che è quella che conoscono tutti, la cosiddetta Bibbia. Ora, per la verità, la Bibbia in ebraico si chiama Tanakh, che è un acronimo di Torah, Nevi'im, Ketuvim, cioè Pentateuco, profeti scritti. Sai che nella Bibbia ci sono poi i profeti, ci sono appunto ci sono tutta la parte dei re, delle cronache, e poi per me il libro di Giobbe, il libro di Esther e l'Ecclesiaste e via dicendo. Quindi questo, e questo è scritto, scritto. Poi c'è invece l'altra grandissima componente che è il Talmud. Il Talmud consiste di Gemara e Mishnah e anche di una parte narrativa che definirei poetica, che sono i Midrashim. Sono narrazioni con valore di interpretazione. Non è pensabile l'ebraismo con una sola parte. Cioè, se uno fa riferimento solo alla Torah, non capisce niente dell'ebraismo. Cioè, la parte talmudica è fondamentale, perché la parte talmudica sono tutti norme contro norme di ogni ambito e i commentari durati centinaia di anni di tantissimi maestri. Il Talmud è un libro non libro, perché doveva rimanere orale finché dopo l'esilio nel corso dell'esilio babilonese i maestri dell'ebraismo ebbero paura che la tradizione orale si sarebbe persa e decisero di metterla per iscritto, ma in questa forma dialogica. Nel Talmud ci sono tutti i pareri prevalsi, ma ci sono anche gli altri pareri, ed è detto esplicitamente che il parere prevalso è quello che vale adesso, ma nel futuro potrà valere un altro parere. Ora, ci sono gruppi minoritari di ortodossi che rifiutano totalmente il sionismo, ma non lo rifiutano dal punto di vista laico. Per esempio, io considero i miei riferimenti la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, la Costituzione Repubblicana come italiano, e come ebreo considero appunto i miei riferimenti gli insegnamenti globali dell'ebraismo, non solo quelli che uno va a prendere che parla della terra promessa, ma la terra è promessa sub condizione, non è promessa così. Dio ribadisce, naturalmente io dico sempre queste cose da ermeneuta amatore, io sono un dilettantissimo, però dico, non fa che ripetere nel corso di tutta la Torah, non fa che ripetere, la terra è mia. Allora, se è la terra del dono, come dicono certi ermeneuti sionisti, allora perché continua a ripetere la terra è mia? Cioè, non è la terra di un nazionalismo. Il nazionalismo, la traduzione dal punto di vista dell'etica ebraica, è idolatria della terra. Ed è la peggiore delle idolatrie. E a mio parere, e non solo a mio, lo direbbe così, l'idolatria è il vero grande nemico dell'ebraismo. Allora, come puoi tu agire con una tale furia nazionalista senza cadere nell'idolatria della terra? E poi l'ebraismo ha la dimensione sabbatica, che è una dimensione universalista. Sabato non ha a vedere quello che gli ebrei festeggiano dovunque si trovano. Non stanno a guardare Israele quando festeggiano lo Shabbat. Dove ti trovi e in qualsiasi luogo tu ti trovi. Quindi libero dal tempo, libero dallo spazio. È la grande dimensione universalista dell'ebraismo. Ora, sarebbe, guarda, avviare una qualsiasi discussione su questo naturalmente richiederebbe un confronto di grandi maestri e io non appartengo per varie ragioni a questo, però insomma ho attenzione. Io credo che il nazionalismo sia una grande blasfemia, perché appunto diventa che la terra diventa, e io personalmente, dico personalmente perché io non rappresento nessuno fuorché me stesso, io sono un ebreo diasporico e non voglio avere nulla a che fare con un nazionalismo e spiego perché. A mio parere, il nazionalismo è stato una delle più grandi pestilenze della storia dell'umanità. Nazionalismo significa guerra e versamento di sangue. Io non posso stare dalla parte dei nazionalisti. Non esiste un nazionalismo pacifico. Il nazionalismo prima o poi diventa bellicista. Sì, ecco, E ecco, quindi, questo, allora, dunque, e sì, io no, sono, ti scusa, interrompo, finisco ti voglio. brevemente. E io sono antinazionalista anche come ebreo, non solo come essere umano, perché nulla ha causato più lutti agli ebrei, più morte, più distruzione e annientamento del nazionalismo. Sì, e tu dici il sionismo è una forma di nazionalismo. Oltretutto del sionismo delle origini, quello che viene chiamato sionismo oggi, secondo me, è tutt'altra cosa. È una pandemia nazionalista. Parlo naturalmente di quelle figure, della destra e dell'estrema destra oggi israeliana che, secondo me, sono iper-ultranazionalisti. Allora, infatti, esistono dei maestri dell'ebraismo e anche delle correnti minoritarie dell'ebraismo che sono radicalmente antisionista. Addirittura dichiarano che Israele è uno stato blasfemo contro l'etica ebraica, contro la spiritualità ebraica, e addirittura questi, parlo di un gruppo che si chiama Naturei Karta, che sono ultraconservatori e non sono dei progressisti, come diremmo noi. Però loro hanno sempre manifestato per la solidarietà al popolo palestinese. Addirittura girano con banchetti, con la bandiera palestinese, con la scritta Free Palestine. Cioè, quindi, quando si dice un buon ebreo deve essere sionista, secondo me questo è una dichiarazione, non so come dire, paraidolatrica. Un ebreo deve. Dire addirittura che un ebreo deve assolutamente credere in Dio, altrimenti non è ebreo, anche questo non è vero. Un ebreo, ci sono addirittura ebrei ortodossi, ebrei osservanti che si dichiarano atei. Cioè, non stiamo parlando di una cosa estremamente complessa, estremamente articolata, che purtroppo, ha perso la sua profondità a causa di questa. Appunto, ripeto, di questo cortocircuito psicopatologico che vorrebbe che ebreo significa uguale sionista. Non è così, non è così. Non lo è stato, non lo è. Dopodiché ognuno è libero di pensare quello che vuole per quello che mi riguarda. Io non mando lettere di insulti come ne ho ricevuti io ho ricevuto insulti pesantissimi. Però appunto. Facendo la tara all'elemento psicopatologico, diciamo, alla fine ho detto perché devo reagire come se queste persone argomentassero nella piena salute mentale. Perché uno che mi ha scritto, uno che mi ha scritto, peccato che i tuoi genitori non sono morti nella Shoah, così non nascevi, cosa devo pensare di questo? Che è un poveretto che deve farsi seriamente vedere da uno psichiatra, perché cosa posso pensare di altro? Io semplicemente argomento, ricevo molto volentieri, se qualcuno si vuole confrontare, discutiamo, no? Per esempio, ho fatto tante obiezioni del genere, la famosa sicurezza di Israele. Oggi Israele è in pace o perlomeno in relazioni estremamente amichevoli con la gran parte del mondo arabo, parliamo Giordania, Egitto, beh, la Siria sarà fuori gioco per almeno mezzo secolo per quello che gli è successo, ma adesso l'Arabia Saudita, i paesi del Golfo, il Marocco, cioè, di cosa stiamo parlando? E poi capisco la sicurezza, cosa c'entra la sicurezza con 700.000 coloni in terre che la legalità internazionale ha attribuito ai palestinesi? Quindi, è ovvio, oppure il contingentamento dell'acqua ai palestinesi, cosa c'entra con la sicurezza? Non c'entra nulla. Allora ecco, è tutta ideologia retorica. Siamo purtroppo in chiusura, Moni, e io ti ringrazio molto di questa conversazione. Quello che tu mi hai detto a proposito, ci hai detto a proposito della complessità dell'ebraismo, mi fa dire che l'issionismo appiattisce una serie di quelli che ho sempre considerato dei valori, cioè la cultura del dubbio, la dialettica, la capacità di vedere i diversi lati delle cose e di vedere la complessità anche dei problemi. Ora siamo al termine. Buongiorno Palestina, ringrazia Moni Ovadia e lo ringrazia in particolare nel comune impegno per la giustizia per i palestinesi. Grazie Moni. Sì, grazie a voi e propongo solo una cosa. Chiamiamo quello di oggi, dovremmo fare un'operazione al contrario, ma per paradosso, chiamiamo questo un nazionalismo essenzialista religioso, perché col sionismo come idea di permettere agli ebrei di avere un luogo sicuro dove non essere più perseguitati, perché il sionismo nasce in un momento in cui la pandemia antisemita è furiosa, non ha più niente a che vedere. Qui siamo di fronte al nazionalismo, l'ipernazionalismo del privilegio. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Per la rassegna musicale di oggi vi proponiamo tre autori molto diversi tra loro nel linguaggio musicale, ma simili nella ricerca di un dialogo culturale. Jordi Savall, Marco Cinque e i CCCP. Jordi Savall è un gambista, direttore d'orchestra, violoncellista e musicologo spagnolo. A metà degli anni 60 comincia lo studio autodidatta della viola da gamba e della musica antica e nel 1974 fonda, assieme alla moglie, il gruppo Hesperion 21, che ha per scopo la riscoperta, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio musicale dell'Europa del Mediterraneo dall'antichità al XVIII secolo. Il gruppo ha dato spazio anche alla tradizione musicale sefardita, quella araba, nonché alla riscoperta dei villancicos, del patrimonio melodico e vocale dell'America Latina. Di Jordi Savall avete ascoltato e ascolterete ancora brani di Mare Nostrum, dialogo tra musiche ottomane, arabo-andaluse, sefardite e armene del bacino mediterraneo. Dall'album Balkan, Honey and Blood, Miele e Sangue, Lior El Mahé e Irini Derebei, canto, Jordi Savall suona il rebec, un antico strumento musicale ad arco con cassa piriforme, la lira d'arco e dirige il gruppo Hesperion 21. Ascolterete poi Marco Cinque. Marco Cinque nasce a Roma il 4 settembre del 57, scrive, fotografa, suona, recita, pubblica saggi, raccolte poetiche, partecipa ad album musicali, festival internazionali di poesie, mostre con tematiche socio-ambientali. L'ultimo progetto editoriale da lui realizzato è l'antologia Poeti da morire, con prefazione di Margherita Hatch, che raccoglie contributi dai bracci della morte degli USA e di autori e autrici nazionali e internazionali. Di Marco Cinque, testo, voce e musica, ascolterete Palestina. Per ultimo, ascolterete Magnificat Anima Dominum dei CCCP. CCCP, fedeli alla linea, sono stati un gruppo musicale punk rock italiano attivo dal 1985 al 1990, considerato tra i più importanti e influenti nell'Italia degli anni 80. Il loro nome, CCCP, appunto, pronunciato così, è l'equivalente della sigla russa SSSR, che in alfabeto cirillico designava l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. E con questo ci salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! che diritto avete voi di farvi saltare in aria? Macellai di carne disarmata, di affogare la vita vostra e altrui nel dolore più assoluto. Che diritto avete voi, seduti nei vostri bar a 5 stelle, d'ubriacarvi dentro privati paradisi, mentre lì accanto si consumano inferni innominabili? Che diritto avete voi di stordirvi il cervello affollando innocenti discoteche, mentre i vostri governi vi rappresentano, occupando, torturando, massacrando? Che diritto abbiamo noi di pensare che ci sia una guerra, quando possiamo interromperla in qualsiasi momento, prendendo accuratamente la mira coi nostri telecomandi? Che diritto abbiamo noi di starne dentro chiamandoci fuori ogni volta, perduti in orde di Nike, in cortei di telefonini, eserciti viziati e insoddisfatti, apparecchiati attorno a strabordanti cene? Che diritto abbiamo noi di indignarci per l'orrore, quando la nostra vera preoccupazione è il non dover mai rinunciare alle oasi di sazietà, ai privilegi? Che diritto abbiamo noi di schierarci con l'una o con l'altra parte, con le nostre verità, con le nostre soluzioni, riposte con puntiglio nell'obice assassino di un carro armato, oppure nella follia di un kamikaze, nella follia di un kamikaze? Ma dov'è? Dov'è la Palestina? Frammenti deflagrati, appesi persino alle tue, alle mie, alle nostre mani. Brandelli dispersi in ogni direzione, che nemmeno le lapidi più affamate riescono a riconoscere. Eccola. Eccola. La Palestina, non solo una terra promessa, non un canto di rivoluzione, non un'intifada perduta, ma solo un grondare dagli occhi, dai cuori, dai pensieri. Eccola, sola, come un ricordo scomodo, abbandonata, abbandonata, abbandonata. Ma dov'è? Dov'è la Palestina? Dove i suoi figli? Dove poter aspettare un'alba che cancelli le ferite? Che cancelli le ferite? Che diritto avete voi? Che diritto abbiamo noi? No, no, no, no, no, no. Non lasciamola morire. No, non lasciamola morire. Non lasciamola. صفقة جان، صفقة جان، صفقة جان، جان، جان. لا صفقة جان.